Don't forget your keys. Prove tecniche di trasmissione / disorder è la pagina Facebook di riferimento dove domani comparirà la playlist e il podcast di questo odierno programma. Vado a salutare Maya e Nicola Locci della Sardegna. Laura Vilded in Milano, Cristiano Bocci in Toscana come Chemical Resistance, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Marco qui a Roma, Lupsi Lucia Cagliazza in quel di Udine. Abbracciato a Rocky, splendido cane. Dario Righi e Sara K.O. Fontana di Progetto No Name, Antonio Zoviet del un altro progetto industriale molto interessante che si chiama Omicidio. Jean-Claude Bertot, fedelissimo in Val d'Aosta, Isetoile, anche lei dalle parti di Milano. Il buon Sascha Rovelli da Bellinzona, boss della Lucesia. Questa sera a 25 o'clock non andrà in onda e vi dà l'appuntamento direttamente alla prossima settimana. Io invece vado ad iniziare riproponendo un passaggio di Kataros, album di esordio del veneziano Digin, Eugen Vintras. Ormai più di una persona saprà riconoscere la ricerca atmosferica, dilatata, claustrofobica di questo musicista. Al suo attivo moltissimi lavori e questo Kataros fu proprio l'esordio nel 2002 con la Slaughter Production di Marco Corbelli. Saluto anche Like Awake, a proposito di validissimo Dark Ambient. Tornando a Digin, ci ascoltiamo Genocide in the Name of God da Kataros. Abbiamo aperto questo primo appuntamento del 2021 per quanto riguarda prove tecniche di trasmissione con l'esordio di Digin di Eugen Vintras da Venezia. Si chiama Kataros e vado a ringraziare Antonio Zoviet e Tabula Rasa per avermi messo a conoscenza, anche perché mi era sfuggito effettivamente dell'esistenza anche di un altro progetto parallelo dal nome Y Incision, più spostato sul Death Industrial. Il tutto si può anche rintracciare nel profilo Bandcamp di Digin. Un profilo Bandcamp interessante ma incompleto se paragonato al, per esempio, se andate a vedere su Discogs ci sono molti molti più lavori. Dal vivo ho potuto constatare le sonorità così criptiche e effettivamente morbose anche dal punto di vista visivo in un vecchio Destination Morgue che si è tenuto qui a Roma, se non sbaglio, 2 anni fa come ultima edizione. Intanto saluto Cristiano Bocci di nuovo, Attila Folklore che ci sta ascoltando dal Ticino, dal progetto e del progetto Mulo Muto insieme a Joel Gilardini. E ricordiamo anche, grazie ancora Antonio, da Death in Venice Productions, che è l'etichetta proprio dello stesso Eugen. Si cambia diciamo registro per un progetto da me amato in maniera appassionata, si chiamano Sigur Rós, provengono dall'Islanda e io ammetto senza ritegno di avere veramente un debole per qualsiasi cosa provenga da quella terra lontana che ho avuto il piacere di andare a visitare tanti tanti anni fa. Quindi mi sono avvicinato a Sigur Rós con molta curiosità, sia degli esordi, e devo dire che sia gli esordi ma anche le ultime cose hanno mantenuto intatto il loro fascino così particolare. Questo cappello, per andare a presentare l'ultimo lavoro dal nome Odin's Raven Magic, cioè evidentemente Odino, che fa parte della cultura nordica di quelle parti. Un album particolare che vede anche la partecipazione di personaggi celebri, soprattutto Ilmarhorn Ilmarsson, collaboratore anche di Current 93, oltre a Steindór Andersen, cantante proprio folk islandese, e Maria Huld Markan Sigdufdóttir. Quindi andiamo ad ascoltare questo album che vede anche la partecipazione di una vera e propria orchestra sinfonica. Ci ascoltiamo The Girl Marvel. sentite questi suoni sotto la mia voce? Questo è praticamente un vibrafono costruito con sassi. Se vi capita di andare su YouTube e guardarvi il video di questa performance, noterete e gradirete soprattutto tutto quello che si sente e appunto si vede. Una orchestra molto interessante, la voce che sentite è proprio di Steindór Andersen, cantante folk islandese. Naturalmente nell'album è presente anche la splendida voce di John C. Birkinson, rimasto insieme al bassista George Holm, mentre gli altri tre personaggi se ne sono andati. Ricordiamo l'Opelandic, un linguaggio più o meno inventato, derivato naturalmente dall'islandese, che contraddistingueva i primi lavori di Sigur Rós. Saluto Vurnus Island, storica realtà industrial piemontese. Saluto Eugen Vintras su queste note così in bilico tra psichedelia, post rock, modern classical, come si suol definire. Andiamo avanti, 21 e 23, andiamo dalle parti di Raffaele Pezzella, questa volta attraverso la Zero K, la terza label fondata da questo factotum napoletano. Music for Abandoned Cold War Places, la musica per i posti abbandonati della guerra fredda. Quindi archeologia industriale ma abbinata alle ceneri belliche e post belliche. E quindi una serie di musicisti di varia provenienza. Ce ne ascoltiamo ben tre questa sera perché poi i brani sono abbastanza brevi. Il primo è Superate Music con 30 Meters Underground, poi Sileni con The Source e Psionic Asylum con Gomer 30. Thank you. e dopo il portoghese Sileni, ecco qua Psionic Asylum, un artista invece proveniente dalla Siberia occidentale, a quanto leggo. Music for Abandoned Cold War Places, questa musica per i posti abbandonati della guerra fredda. Questi sono gli intenti di Raffaele Pezzella, che scrive in questo lavoro che esce per la Zero K, la sua terza label fondata recentemente. E viene anche nominato Brian Eno e il suo Music for Airports come concetto, ripreso poi anche in questa circostanza da tanti di questi artisti presenti in questa compilation. Questa sera Super 8 Music, il portoghese Sileni, il siberiano Psionic, Asylum, tutti questi hanno, soprattutto gli ultimi due li ho trovati, degli interessantissimi profili Bandcamp, molto belli peraltro graficamente. Drones sepolcrali e increspature noise hanno caratterizzato queste tre tracce per questa sera. Rimaniamo nell'est esattamente, si va in Russia. Lui si chiama Nubiferus ed è un artista che invece popola un'altra compilation di Marco Chandler, della Chandler Records, che si chiama Black Solitude volume 2. Le atmosfere sono abbastanza simili. E per Nubiferus ci ascoltiamo Strabor. Lui è il russo Nobiferus, andate a vedere il suo profilo Bandcamp, è veramente spettacolare dal punto di vista grafico, oltre ad avere molte opere anche in free download. Intelligente l'osservazione di Eugen Vintras sul fatto che, e parlavamo di Psionic Asylum, lui come tanti artisti producono ormai pochissimi CD fisici, prediligendo la tattica digitale. Se pensiamo che anche l'Antezen, etichetta a noi cara e abbastanza nota da queste parti, ha scelto da un anno ormai di non fare più CD fisici e vendere, diciamo, anche e soltanto in supporto, senza supporto fisico, ma solo in digitale. E io invece sono uno di quelli che, se può, si va a reperire appunto un caro e vecchio tra virgolette CD. Saluto Alessandro da Fiamignano, un grosso bacio a lei, e vado anche a salutare Flavio e Arianna di Noise Cluster e di BPIT. Su questo similtuono lasciamo Black Solitude volume 2 per la Chandra Music di Arezzo di Marco Grosso. E viriamo su un suono più elettronico industriale, appartenente a Dirk Evans e i suoi Dive. Anche per questa sera due passaggi riguardanti Where Do We Go From Here? Un'altra conferma eccellente per questo artista belga, un album uscito l'11 dicembre dell'anno scorso. Questa sera ci ascoltiamo Facing the Moon e Dark Place, due episodi leggermente più lenti e intimisti rispetto all'andamento dell'intero album. watch the burning sky. Merge into each other, and on your wings we fly. Devo essere sincero, quando ho sentito per la prima volta questo Where Do We Go From Here, l'ultimo album di Dive, ero rimasto un po' perplesso. Ma dopo il quinto, sesto ascolto, e forse anche più, invece, è un album che mi ha conquistato letteralmente, tra i migliori del 2020. In una mia ideale, diciamo, playlist dei migliori album del 2020, c'è anche lui, Dirk Evans con Dive. 30 anni di ottima carriera, ricordiamo prima come Clinic, progetto poi ripreso insieme a Mark Vergen, progetto però che probabilmente è stato abbandonato dallo stesso Dirk. Per quanto riguarda Mark Vergen, tornato in pista dopo una scomparsa dalle scene per problemi di salute, sembra ritornato e sembra che forse Clinic continuerà soltanto come suo progetto personale. Nel 2021 invece è atteso l'ultimo lavoro con Absolute Body Control insieme a Eric Van Bontergem, già conosciuto come Monolith, Insect, eccetera eccetera. Questo album di Dive esce per la Out Online, giacché la sua label, la Daft Records, diciamo è un po' in latenza. Adesso andiamo invece in Svizzera, alla luce sia di Sasha Rovelli e Nebojša Bašić, che vado a salutare, e lo facciamo per andare a conoscere l'ultimo lavoro di RD, che dovrebbe nascondere il nome semplicemente di Roberto Drago, già noto come aderente al progetto The Tapes insieme al fratello. The Tapes li abbiamo graditi in sede di Disorder, qui invece le sonorità sono più adatte a questa sede del mercoledì sera. L'album si chiama Bodies Inspected.